Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Il sesto gol in campionato del fenomeno. Pallone splendido per Felipe Anderson, lo mette giù, il cross, palla ribattuta, Keita Balde l'ha ribaltata la Lazio, e 1-2 al Castellani a 10 dal 90esimo. Palla in area di rigore, si gira Petagna, cross che taglia l'area di rigore, e il gol dell'Atalanta con Conti, il gol dell'1-0 per i bergamaschi. Niente da fare per il portiere del Crotone, Cordaz. Bravo a tenere vivo questo pallone, Banega lo gioca benissimo, su D'Ambrosio, sotto porta! Per l'Inter, controllo di Insigne che punta e tira. Il Napoli ricomincia dal solito Insigne. De Vrel riceve centralmente. De Vrel sinistro. De Vrel, un gioiello anche questo. Grande gol. Grande gol. Cherry, la palla di ritorno. Membusciai dentro. Ben Ali. Che bellezza l'azione del Pescara, splendido gol del 3-0. Salah offre verso Totti, Nainggolan, 4-1, un altro squillo per la Roma, l'assist di Totti, Nainggolan col piazzato, tutto troppo facile. Scattato Ilicic a sinistra, Borja Valero si allunga il pallone, glielo ruba Sosa, Pasalic, Deulofeu in percussione, al limite, Deulofeu, rete, gran gol di Deulofeu, e il Milan di nuovo in vantaggio. Ieri ho adombrato il sospetto che Gabigol dopo il gol si sia tolto la maglia perché era orrenda. No, ho ricevuto risposte. L'Inter ha giocato con quelle magliette disegnate con il doppio evidenziatore. Ma vabbè, è il nuovo idolo del popolo mediatico nerazzurro. Pardo è andato al momento a nascondersi causa una pessima schedina, una schedina così. Dettata il venerdì, ma poi lo recuperiamo. Avremo, mi dicono, tanti eccellenti ospiti. Avremo voi, ascoltatori, 800 24 00 24, numero verde, oppure per i vostri iscritti, SMS, WhatsApp, 349 238 6666. Non c'è che dire, avete cominciato bene. Del tipo, o parlate un'ora del rigore non dato al Bologna, o ha ragione Sconcerti che siete mediaticamente sudditi dell'Inter. Io mi dissocio, nel senso, non sono mediaticamente suddito dell'Inter, non ho parlato con Sconcerti, non ho voglia di parlare per un'ora di un clamoroso rigore non dato al Bologna ieri. Non risulta però notizia di pagnolata dei tifosi dell'Inter ieri a Bologna, giusto Giorgio De Luca, autore del nostro programma? Non risulta Gianmarco Ferronati in regia? No. Edoardo Lavezzari? Non risulta pagnolata? No. Quindi non c'è stata, ma magari ci sarà. Per la bellezza del e la pulizia del calcio universale e mondiale, domenica a San Siro, in onore ovviamente del Bologna, a cui rigore non è stato dato. Vabbè, è stata una domenica di tante piccole cose interessanti, una domenica in cui vincono tutte le grandi, e questo ormai non fa notizia nel campionato attuale. Molto zemaniano, ha sottolineato qualcuno, perché se ne danno e se ne prendono molti. La Juventus ha già subito 17 gol, che sono tantissimi per una squadra che si avvia a vincere il titolo. Ci sono molte goleade, non soltanto perché è ricominciata l'era Zeman, ma anche perché si vedono pochi pullman parcheggiati davanti alla porta, forse, come scrive sempre qualcuno, è giusto citarlo, copyright Maurizio Crosetti su Repubblica. Poi abbiamo il Napoli che risponde a De Laurentiis, non lo fa con le parole perché c'è silenzio stampa perenne, perpetuo, credo che non finirà mai il silenzio stampa del Napoli, fino a nuovo ordine comunque, ma c'è un tweet di Reina interessante che tra poco analizzeremo. Abbiamo detto di Gabigol, idolo mediatico del popolo, dei social, nerazzurro, segna il primo gol italiano a Bologna come Ronaldo, e qui ragazzi andateci piano con le bestemmie in chiesa, nella chiesa calcistica naturalmente. C'è De Lofeu che fa un gol straordinario dando la vittoria al Milan, anche per lui è la giornata del primo gol, e chissà che questi possano essere in futuro i nuovi idoli delle squadre milanesi o cinesi a Milano, delle squadre cinesi a Milano. C'è il ritorno appunto di Zeemanlandia, il nuovo casino intorno al Genoa, insomma un sacco di cose, ma ho parlato anche troppo perché vorrei farvi sentire Spalletti, che è stato domandato del suo contratto e ha risposto un'altra cosa. Se Francesco vuole giocare il prossimo anno è giusto che rigiochi e che gli vada rinnovato il contratto. Ma cosa perché... c'entra col suo contratto? Ma perché no, quelli importanti sono i calciatori, non sono gli allenatori. Io poi dopo tre secondi posti, come il primo anno ero quinto, sesto, si è cominciato a dire devo andare via, per cui sono arrivato quinto e sono dovuto andare via. È così, se non si arriva, la Roma è sempre arrivata seconda in questi ultimi anni. Per cui se... Quindi se lei vince l'Europa League rimane, se non vince l'Europa League e il campionato se ne va. Io gli dico che il contratto dei giocatori importanti, Totti è un giocatore importante. Ma perché mette sempre se di mezzo il contratto di Totti col suo? Continuare a giocare, va fatto giocare. Come no? Ne parlavate sempre voi, ora ne voglio parlare io, non posso. Insomma, Spalletti ne trova sempre, ne sa una più del diavolo. Allora, fronte Napoli, non possono parlare ma possono scrivere i tweet, come ha fatto una delle anime dello spogliatoio azzurro, cioè Pepe Reina, scrivendo: grande gruppo di gente umile che lascia sempre tutto in maiuscolo, il tutto è scritto in caratteri maiuscoli, in campo, grande vittoria ragazzi, complimenti a tutti, testa bassa e lavoro, cioè tutto vuol dire ragazzi ma ce l'abbiamo. Sto facendo una parafrasi magari sbagliata, e lavoro è la parola che continua a sottolineare Sarri. In più compare una foto in cui i giocatori mostrano, esibiscono la classica maglia azzurra del Napoli, mentre De Laurentiis preferisce quella attualmente, quella bianca con striscia diagonale azzurra, che dice che porta fortuna. Abbiamo anche un'altra cosa da farvi sentire, e che è Montella che dedica la vittoria a diciamo l'ex presidente del Milan. Ancora no, ci tenevo a fare un ringraziamento, insomma un augurio anche a nome della squadra da parte per il presidente Berlusconi, insomma questa vittoria gliela dedichiamo a lui. Non sappiamo o meno se sia l'ultimo sua partita casalinga, però se non lo sai, però se gliela dedichi un sospetto ce l'avrai, cioè. No, si legge, leggiamo tutti, quindi però ci tenevo anche a nome della squadra, quindi siamo contenti di avergli regalato questa piccola gioia anche insomma al dottor Galliani. Questo era Montella, poi parleremo anche in ordine sparso ovviamente dello strano nervosismo della Juventus, avremo dopo le GR le pagelle di uno dei direttori di quotidiani italiani, parleremo della Milano che vince, che è quella del basket che ha già vinto la Coppa Italia ieri a Rimini. Ci fermiamo per il traffico e poi già abbiamo un grande ospite in linea. Tutti convocati. Tutti convocati. Vi voglio raccontare una cosa in diretta. Poi più tardi avremo Jasmine Repeja, che è allenatore di Milano, che ieri ha scritto una pagina della storia, della lunghissima storia del basket a Milano, ha vinto la Coppa Italia, e c'è il mio amico Claudio Limardi, deus ex machina dell'ufficio stampa milanese, responsabile dell'ufficio stampa milanese, che scrive: scandisci bene le domande senza slang, perché contrariamente a quanto si pensi non se la cava benissimo con l'italiano. Non è vero, se la cava benissimo con l'italiano. Ovviamente se la cava bene con l'italiano Pierluigi Pardo, che era raccontato la Roma. Ciao Pierluigi. Come va? Molto bene, molto bene. E salutiamo insieme mister Rolando Maran, ringraziandolo, allenatore del Chievo. Grande Rolando. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Oggi non tanto bene, però. Che domanda è? In generale va bene, dai. L'ennesima grande stagione. Ma allora ti faccio l'ultima domanda che non riguarda il Chievo. Che Napoli hai visto? Ho visto un Napoli torto, arrabbiato, con voglia di mettere subito alle spalle una partita andata male e che ha fatto subito capire che partita sarebbe stata per noi. Poi noi l'abbiamo rimediata nel secondo tempo, ma all'inizio abbiamo affrontato veramente un Napoli difficile da affrontare. Rolando, 25, faccio i numeri del Chievo. Alla 25esima giornata Chievo 32 punti, uno più della stagione scorsa, 7 in più rispetto a due anni fa, la tua prima stagione. Appunto, ti chiedo se rimproveri qualcosa per i primi 60 minuti della tua squadra o avete semplicemente subito la rabbia del Napoli, che immagino sia stata tanta. Io credo che la verità stia nel mezzo. Un po' sicuramente il Napoli ha spinto di più nella prima parte. Un po' noi siamo stati timidi nella prima frazione, non siamo riusciti ad avere quella spavalderia, quel coraggio che si è sempre contraddistinto e che ci ha permesso anche nella seconda parte di riaprire una partita che sembrava già chiusa e anzi nella parte finale mettere un po' le corde anche il Napoli. E credo che ci sia dei meriti del Napoli sicuramente, qualche demerito nostro, ma più che altro perché c'è proprio il coraggio necessario che noi dobbiamo sempre avere. Sì, sembra, tra l'altro state facendo, come diceva Pardo, un eccellente campionato. Ma ti aspettavi un Napoli con così tanti cambi come ad esempio Pavoletti dal primo minuto? Ma io credo che adesso loro vadano incontro ad un periodo dove giocano tanto e hanno tante partite, per cui magari mi stavo considerando magari il Chievo tappa non sbagliare, però da poter far rifiatare qualcuno mi aspettavo qualche cambio, sì. Anche tu, Pierluigi? Beh sì, anche se come abbiamo detto tante volte, insomma, Sarri non è esattamente l'allenatore più turnoverista, se mi passi questa orrenda espressione, del campionato, però credo che in un momento come questo, e alla luce della rosa del Napoli, che quest'anno ha finalmente una rosa molto profonda e quindi con tanti cambi possibili di qualità in tutti i reparti, ci fosse questa ipotesi. Che motivazioni, mister, si possono dare alla squadra? Nel senso che è un campionato strano, lo dico, un po' noiosetto secondo me, sinceramente, no? Nel senso che comunque alla fine ci sono tre squadre che sono nettamente dietro, al di là di adesso di quello che farà Pescara con Zeman, non lo so. Tra l'altro ospite del Chievo la prossima domenica. Ma in generale come si può dare motivazione? È più difficile rispetto a magari a qualche stagione fa riuscire a dare motivazioni a squadre che sono tranquille, non hanno prospettive europee, però non hanno neanche grandi rischi? Era la mia paura anche lo scorso anno, perché a un certo punto ci siamo salvati con largo anticipo e non dovendo più chiedere niente al campionato ho chiesto un ulteriore sforzo alla squadra, il fatto anche di superarsi, di andare oltre ai propri limiti, di dimostrare fino alla fine che sono questi, dimostrare tutti i nostri meriti, tutti i nostri miglioramenti. L'anno scorso è andata bene, nel senso che comunque siamo stati bravi a spingere fino in fondo nonostante appunto ci fossero obiettivi da raggiungere. Io confido che anche quest'anno ci sia questa voglia, ho una squadra matura e che ha ricepito bene questo messaggio e che sa che anche il futuro passa attraverso questi mesi dove dobbiamo essere bravi a raccogliere il più possibile, per poi questo fa la differenza alla fine, sì. Anche se non è un obiettivo tangibile, però è un obiettivo morale, un obiettivo che vedere una squadra che lotta sempre ti fa trovare pronto anche l'anno successivo a un campionato tosto. Esatto, e poi individualmente comunque i giocatori si mettono in mostra, parleremo poi di inglese, però anche lo fanno anche per loro, non è una parolaccia questa. Io credo che sia un dovere al di là di tutto poi dare sempre il massimo. Facciamo io perché faccio allenatore, ma i giocatori fanno i giocatori e facciamo il lavoro più bello del mondo, nel senso, per chi che ama questo sport, il fatto di poter essere protagonista e ogni domenica su un campo di Serie A credo che sia una cosa che deve darti orgoglio, e questo orgoglio lo devi tramutare con grande passione, portare impegno dall'inizio alla fine. Sono d'accordissimo, fate il lavoro più bello del mondo, il secondo lavoro più bello del mondo è quello che fa Pardo, che è sempre in giro. Domani vado a Porto, che è la mia città preferita in Europa, quindi. Affrontare il Pescara con Zeman, io non sono un grande zemaniano, insomma, io neanche indubbiamente è uno di quegli allenatori, secondo me, per certi contesti, con dei ragazzi giovani affamati, è una grande scelta, secondo me. Poi magari nelle grandi ha fallito, si è rinnovato poco, ma per un avversario, visto che la sfida ci sarà fra qualche giorno, cambia qualcosa nella preparazione della partita? Ma non c'è ancora, perché comunque ogni allenatore ha dei propri canoni da seguire. Probabilmente li troviamo con, dal punto di vista morale, nel momento migliore, perché hanno vinto la prima partita, l'hanno vinta in maniera eclatante, e questo non era mai accaduto quest'anno, per cui troveremo il Pescara galvanizzato da questo, e questo può dare qualche problematica in più, però questo riguarda poi gli altri. Noi dobbiamo guardare in casa nostra e senza fasciarsi la testa, al di là del morale che troviamo da parte dei nostri avversari, dovremmo contare su noi stessi e basta. Sì, io sto leggendo un messaggio malizioso di Mario Marandice, di voler sempre dare il massimo. Secondo lei vale per tutte le squadre di Serie A? Secondo me no. Questo è un altro punto, ma comunque non è di questo che voglio parlare. Posso dire una cosa? Io invece a questa cosa non ci credo. Io credo, che siano dinamiche diverse all'interno delle squadre. Quando ci sono, infatti, per questo la domanda fatta a Maran è molto interessante, fatta agli allenatori è molto interessante, perché nessuno vuole mai perdere una partita, al netto di quelle situazioni che ogni 20 anni ci sono, di scandali sulle quali poi la magistratura giustamente indaga, e chi sbaglia paga, ma quelle sono situazioni patologiche. Nel mondo normale ci sono situazioni in cui è ovvio che se tu sei salvo, tranquillo, l'obiettivo è lontano, soprattutto nella banalità, no, delle partite, preparare una partita contro il Napoli, contro la Juve, contro la Roma, può avere un derby, può avere ovviamente un'adrenalina diversa, ma le partite normali, la quotidianità del campionato, penso che sia un po' più complessa, in qualche modo Maran ce lo conferma, no? Però lì c'è la professionalità dei giocatori. Certo, ma io vi assicuro che anche negli ultimi anni, magari qualche anno fa, ma non per, appunto, come dicevi tu, non perché ci sia chissà che trame sotto, ma che in questi ultimi anni ci sia stata veramente grande voglia da parte di tutti, anche chi era sempre obiettivo di arrivare e spingere fino in fondo. È vero che il calcio in questi ultimi anni, da questo punto di vista, ha fatto un bel salto di qualità, nel senso che non ci sono più risultati scontati, e questo è stato anche fino alla fine, negli ultimi anni, secondo me, da questo punto di vista, i risultati scontati sono andati un po' a quasi a sparire. Sì, è soddisfatto di aver portato inglese in nazionale. Mi fa piacere perché, al di là della soddisfazione per un allenatore, quando vedi dei ragazzi che lavorano in un certo modo, che hanno una grande partecipazione, e vederli che arrivano al campo per migliorarsi tutti i giorni, dà ancora più soddisfazione vedere che poi realizzino un sogno, realizzino comunque a piccoli step dei sogni che possono essere fondamentali per la loro carriera. Senti mister, la scorsa estate il tuo è stato uno dei nomi più gettonati in chiave mercato. Potrebbe essere un'estate simile a questa, no Pardo? Magari direi sì. Potrebbe essere concupito da altri club, Rolando Maran. Devo rispondere io? Sì. Pardo può rispondere quello che vuole, ma ciò che ci interessa è la tua opinione. No, vabbè, è ovvio che quando ci possono essere degli interessi per un allenatore, per qualsiasi professionista fa bene, perché comunque viene gratificata quello che è dimostrato sul campo, e questo fa piacere. Però sai, possono sembrare anche fasi di circostanza, però io credo che sia prematuro parlare di altri aspetti. Credo che ci sia, sono in una società dove ho un contratto che scadrà nei prossimi anni, per cui io devo pensare a far bene lì dove sono, perché questo comunque è quello che eventualmente ti può gratificare poi nel futuro. Sì, comunque fa piacere. Comunque Fabio, comunque, cioè, poi a Chievo ti trovi bene, hai il contratto, la squadra va bene, queste cose sono tutte vere, ci crediamo, però fa piacere. Se qualcuno suona il campanello. Grazie mister. No, l'ultima cosa, inglese, no, arrivato in nazionale, ma il fatto di giocare della Pardense, che è la mia squadra di fantacalcio, quanta dal punto di vista proprio della personalità gli ha dato una carica incredibile. Io lo vedo avvelenato proprio per questo motivo. Io, me l'hai stimolato a mille. No, ma infatti, ma anche lui mi ha parlato molto bene di te. Sì, adesso merito tuo, sei inglese nazionale. Bravo. Io penso Chievo, fra l'altro, adesso non vorrei dire penso Chievo fantacalcio. Non hai sbagliato scelta. Penso Chievo. Sbaglio quasi sempre fra Meggiorini e inglese quello giusto. Vabbè, comunque va bene, arrivederci. Dimostra che non ci mandiamo messaggi. Ma che scusa, non ma lo chiami? Chiami Rolando Malagna, mandi un messaggio. Chi metto nella Pardense, metto Meggiorini o metto inglese? Non lo chiamo perché sarebbe un abuso di potere. Non posso ma vergogna. Non lo chiamo. Grazie, mister. È un calcio pulito. Grazie, mister. Grazie, è stato un piacere per noi. Pierluigi sta lì. Sì, dai, si muove. 800 24 00 24 borsa. Tutti convocati. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Convocati. Comunque stiamo contattando un secondo grande ospite oggi molto gettonato. Parriere ha raccontato, a proposito, cosa ha fatto la Pardense? La Pardense questa giornata non lo so, però adesso ho appena visto che la settimana scorsa ha perso 4-0, sono perso in classifica, ma la verità è che mi occupo, cioè fantacalcio mi ha annoiato da una vita, proprio una cosa annoiato. E poi fanno sempre l'asso i miei amici storici, per cui io non voglio mollare questa roba, perché facciamo questo dal 92. Avevo Roberto Mancini, cominciamo nel dicembre 92 con una tripletta di Mancini in Samp Foggia. Sì, ho avuto Mancini, Maldini, Aaron Winter, venduto Totti per caccia a 120 miliardi. Questo lo sa, il grande tutto, errore della lo storia. Lo sa tutto il mondo. E quest'anno ho venduto Dzeko, tu sei bestiale, perché quando vinci, che sia la schedina che sia fantacalcio, vinco. Quando perdi non mi interessa più tanto. Non è vero, ma non è che perdo. Ho anche vinto il campionato 2-3 anni fa, poi ho fatto calcio a 12. Sono una delle società più titolate della nostra inutile lega. Quanto al tuo grande affare di quest'anno, avendo ceduto Dzeko, ieri ha raccontato la Roma per Mediaset Premium. Come interpreti quelle parole di Spalletti? E il tuo contratto? No, ma Totti deve rimanere. Se non fanno contratto a Totti, me ne vado io. Ma no, ma il tuo contratto? No, quanto sei giocatori? Come li interpreti quella roba lì? Non Spalletti, il tema Totti rimane caldo. No, ma la mia impressione è che Totti non c'entri nulla. Cioè, in questa però cosa. È una, secondo me è una specie di cosa che gli torna in testa, non so come dirti. Ma secondo me l'ha usato come pretesto per non parlare del suo. Sì, questo sicuramente, però poi c'è stata una conferenza stampa nella quale ha continuato, e non lo so, nel senso che io so che Spalletti è un fenomeno e questo è quello che si vede in campo. So che non ha ancora deciso il suo futuro, perché altrimenti credo che tutto sarebbe più semplice. Vuole forse capire anche che tipo di scenari ci possono essere e che tipo di investimenti ci possono essere alla Roma. Sai che la questione stadio è una questione importante, no, da questo punto di vista, certo. E il resto non lo so. Io credo che Totti onestamente oggi non sia, cioè analizzando razionalmente la questione, non sia più un tema decisivo. No, assolutamente non lo è. Totti si può rinnovare il contratto perché ha ragione in questo Spalletti. Ma appena, sì, ma finché ne ha voglia lui, anche ieri ha fatto un assist, insomma, cioè, dire, giocatore, Totti sta di. Devo dire che ti ricordi come stavamo un anno fa, più o meno di questi tempi? Certo, Roma esattamente. Ecco, in un anno devo dire che tutti hanno fatto una grande figura. Spalletti comunque è riuscito a gestirlo in maniera adeguata e nel frattempo ha fatto sbocciare la nuova Roma con dei giocatori giovani di grandissimo livello. Totti è un professionista esemplare che sta sempre in panchina, lo inquadrano spesso, è sempre il più allegro di tutti. È passata quella fase di febbraio-marzo dell'anno scorso, esatto, con bravo. Tutte le polemiche, passata anche di questa intervista di Ilari a settembre, per il resto invece mi sembra che il rapporto è assolutamente virtuoso. Totti, quando entra, assolutamente. Ha accettato il ruolo, quasi si diverte, no? Entra, cioè, quasi si diverte, sa che entra in campo e comunque una perla riesce a buttarla sul prato, o due o tre, esattamente così. Il dubbio era se Totti avrebbe accettato a lungo questo ruolo, ha dimostrato con i fatti di averlo fatto. C'è Sergio da Bologna che ho l'impressione come un presentimento presentimento di sapere stesso. Già di che cosa vuol parlare Sergio. Volevo raccontare brevemente la mia esperienza di ieri, che dopo 30 anni sono tornato allo stadio a Bologna a vedere Bologna-Inter per accompagnare i miei figli che hanno 10 e 8 anni. Io l'ultima volta che sono andato allo stadio era a Bergamo, ne sono uscito circondato dalla polizia. Ieri a Bologna è stata una roba straordinaria, uno stadio meraviglioso, pieno. E poi cosa devo dire? Vedere quello che usciva dagli occhi di uno dei miei due figli, alla vista di quello spettacolo verde che c'era laggiù, è stata una roba commovente e ho avuto voglia di parlare con voi già da ieri, perché ha fatto bene. Allo stadio si sta proprio bene quando abbiamo tutti voglia di far bene. Ma ha fatto bene, una telefonata molto bellissima. Il rigore l'ha visto, no? No, hai visto, abbiamo avuto un presentimento sbagliato. Invece totalmente sbagliato. È bellissima, è da registrare questa telefonata e da far risentire, perché io ho la sensazione che il clima negli stadi sia un po' migliorato. È migliorato purtroppo anche attraverso, secondo me, lo svuotamento degli stadi. Per cui poi quando c'è qualcosa invece di pieno come ieri, di bello, di caldo come ieri, ti fa un po' effetto, no? Bologna è stato oggettivamente molto bello. Io non c'ero, ma ho visto colpo d'occhio, era molto bello. Il clima è migliorato e si deve andare avanti così, possibilmente in stadi migliori, perché i tifosi italiani che vanno allo stadio spesso sono degli eroi, nel senso che assistono a delle partite con dei disagi dai parcheggi agli stadi, senza, in questi casi senza nemmeno il tetto se piove, quindi è proprio una specie di missione. Bravo. Pagando biglietti che non è che sono carissimi, come gli stadi che sono difficilissimo scomodi, comprare, non è che sono economici, no? Cioè, che lo stadio è scomodo, allora dopo essere stati registrati come dei criminali anche se sono bambini, vabbè. Allora io sono un po' in difficoltà, Pierluigi, ti confesso, perché adesso dobbiamo anche noi provare una missione, che è quella di consolare Francesco Baccini. Ne hai presi 5. Juric non c'è più. L'area di Pescara, esatto. No, è che siamo messi veramente male. Al di là di Juric, sai, quando tu in una squadra privi dei 4 punti fermi della squadra, che erano Pavoletti, Rincon, Perin si è fatto male e Veloso. Chiaramente questa squadra qui, questa era la spina dorsale della squadra. Benissimo, ma Juric che colpa ne ha? Se appunto. No, secondo me, Juric, dopo 9 partite fai 2 punti, è chiaro che alla fine paga l'allenatore, perché non puoi mandare a casa tutti i giocatori, deve fare una scelta. E devo dire che nelle ultime domeniche il Genoa era veramente inguardabile, cioè tu puoi perdere una partita, puoi perdere anche 5 di fila, ma devi vedere una squadra che comunque va in campo per giocare e giocarsela. Francesco, però Pierluigi, l'hai visto il Genoa di recente? L'hai commentato? Ma guarda, il Genoa? Io purtroppo non dobbiamo cambiare il presidente, no, secondo me non puoi cambiarlo, perché a Genova non c'è nessuno che può comprare il Genoa, anche perché il Genoa è in una condizione con un debito talmente enorme che chi è che si compra una società con un debito così alto? Basso. Bisogna trovare un cinese pazzo che dice la compro. Beh, siccome magari qualche cinese in giro si trova, per una piazza storica come Genova e per una bandiera storica come quella del Grifone. Come dire, sarebbe il massimo. Purtroppo non c'è il cinese e dobbiamo tenerci il presidente che abbiamo, che ogni anno ormai ci ha abituato da anni a smembrare la squadra durante a campionato sì, in corso. Ma questo comunque rientra l'unico allenatore che era giusto per Preziosi, era Gasperini, Gasperini è un genio del calcio, questo gli cambiava 72 giocatori durante l'anno, questo doveva reinventare ogni volta la squadra e ci riusciva. E addirittura mettendo giocatori a fare un ruolo che non avevano mai fatto. Quindi, sì, sì, questo è vero. Pardo, dillo stasera a Gasperini, no, che sarà. Stasera glielo dico a Gasperini. Dillo che secondo Baccini è un genio del calcio per ma questo. Io l'ho sempre detto, ma io a Gasperini, fossi il presidente dei giorni, gli faccio firmare un contratto veramente come Ferguson, tutta la vita. Blindatissimo. Ma io ti faccio fare, cioè, tu mi dici Juric all'inizio sembrava un po' un Gasperini, Juric ha sempre attuato un po' la tattica di Gasperini. Il problema è che finché aveva quei giocatori, era ancora l'ossatura, in panchina c'era il fantasma di Gasperini per la prima parte di campionato comunque, perché quei giocatori giocavano quel calcio lì. Juric lo giocava abbastanza simile, quindi bene o male anche per noi gasperiniani era abbastanza un po' indolore questa non partenza. Sì. Il problema è arrivato quando questi quattro giocatori, non ne ha levati solo quattro, perché Pierluigi, correggimi se sbaglio, il Genoa ne ha cambiati 7-8, cioè praticamente rifatto non solo la spina dorsale ma anche tutto il resto. Quando tu fai una squadra, sai, dei giocatori cardine, dove tu basi la squadra, ma anche quando giochi da bambini, ci sono così, dici questo qui è il portiere, quello del centrocampista, quello della punta, e poi intorno ci fai la squadra. Allora, la spina dorsale della squadra, sia per infortuni che per mercato, non esiste più. E chiaramente c'è una squadra di giocatori nuovi che non sanno esattamente cosa fare. Ma infatti, il giorno di ieri, ma delle ultime 3-4 partite, è una squadra assolutamente senza identità. Ma anche una squadra che ha mollato l'allenatore, secondo me. Ma che probabilmente non ha mollato anche l'allenatore, ma c'è anche da dire che probabilmente l'allenatore non ha saputo tenere la squadra. Non lo so, delle due l'una. Comunque arriva Mandorlini che non ti piace tanto. Tra l'altro le notizie, non mi piace per niente, però. Tra l'altro notizia di oggi, Francesco, che il fatto che non verrà seguito in questa avventura genoana da Nicolini. Perché non lo seguo a Genoa perché sono sandoriano. Ma lo credo, ma Nicolini è un simbolo della Sampdoria, come dire che arriva a Sampdoria, che ne so, Milito. Questo è molto bello, queste cose qui, io vivo a Milano ormai da 20 anni, a Milano queste cose qui abbiamo visto passaggi di giocatori da Milanese così normali. A Genova invece ancora, ragazzi, se uno ha giocato nel Genova, nella Sampdoria, ha problemi andare dall'altra parte, ecco. Bollato a vita. E quindi Nicolini per prima ha detto ma non vengo, anche perché lui è proprio sandoriano, giocando alla Sampdoria, è un simbolo della Sampdoria, non può venire a fare il secondo all'allenatore del Genoa. Cosa volevi dire, Pierluigi? No, che questa cosa mi piace in assoluto, nel senso che è un po' come il discorso di Puggioni, ma potrebbe valere ovviamente anche in senso contrario, cioè in un mondo dove regna l'iperprofessionismo. Questa cosa, ragazzi, per quanto irrazionale, secondo me, tutto, appunto, Baccini ce lo confermerà, dal punto di vista del tifoso del Genoa, ti può anche stare sulle palle il Puggioni di turno che non viene, però alla fine invece in realtà è una scelta che rispetti, perché ti darebbe fastidio se andasse a allenare la Samp, no? Ma se Nicolini venisse tra domenica sulla panchina del Genoa sarebbe una bordata di fischioni partita. Oltretutto. Noi siamo, ragazzi, genuani, sono tosti, eh? Lo sappiamo, Francesco, anche tu. Giustamente Nicolini dice no, ragazzi, no. Ma guarda, ti faccio un esempio. Nel 90, quando la Sampdoria vinse lo scudetto, io ero amico di Vialli, perché ero amico di Caricola, che era amico di Vialli, quindi ci si vedeva. Uh-huh. Ovviamente cioè, non potevi girare così in giro per sé, cioè, veniva fuori un casino. E Vialli, quando vinse la Sampdoria lo scudetto, mi invitò alla festa della Sampdoria. Ma Gianluca, sei impazzo? Sei impazzo? Ma no, dai, vieni, vabbè, Genova, ma Genova no. Io avevo appena fatto l'Inno del Genoa. Andavi lì e lo cantavi a squarciagola. Grazie, grazie, grazie Francesco. Ma non era finita. Ah, non è finita. Quella festa c'è andato Gino Paoli. Gino Paoli a Genova si sapeva che era genuano. Certo. Si presentò sul palco della festa, tanto su Rai 1, con il giubbetto degli Ultras e Vialli e Mancini che dissero: ti scortiamo noi, perché i tifosi della Sampdoria lo fischiarono perché dopo che era genuano. E i tifosi della Sampdoria dicono: ma come si fa lì Gino Paoli? È come vedere Venditti che canta alla festa. Forza Lazio. Sì, sì, sì, sì. Grazie Francesco, alla prossima. Ciao. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ad Maiora. Ti saluto il genio. Saluta il genio Gasperini stasera. Allora, traffico, arriviamo. Tutti convocati. Tutti convocati. Io cerco di fare una cosa alla volta, per il discorso che sono tornato a Pescara, perché molti pescaresi mi hanno dato del traditore, io continuo a dire, se la Roma ha chiamato, sono pochi allenatori che possono rifiutare una piazza così. Oggi sono tornato perché avevano bisogno, secondo me, io sono a disposizione. Il Vine è uno degli ospiti più gettonati di oggi in Italia. Daniele Sebastiani, presidente del Pescara. L'hanno perdonato dunque Zeman? La piazza lo ha perdonato, non è più il traditore, presidente? Ma non, nessuno l'aveva etichettato come traditore. Secondo me c'era stata delusione in quella decisione sua e più che etichettarlo era stata la grande delusione che tutti i tifosi pescaresi hanno avuto nel momento in cui il mister ha deciso di accettare Roma. Ma d'altronde, come ha sempre detto lui, dire di no a un'offerta come quella non era facile per nessuno. Quindi. No, bisogna essere onesti, questa è la verità. No, Paolo. Certo, cioè, io infatti ho da tempo... mi sono abituato al fatto di giocatori che baciano la maglia e poi dopo sei mesi trovi da un'altra parte, quindi bisogna capire come va il mondo. Stiamo parlando di professionisti, io e Pardo l'abbiamo detto molte volte. C'è qualcosa che vuoi chiedere, Daniele, Pierluigi? Sì, gli chiedo se, al netto del fatto che Oddo sicuramente non aveva tutte le colpe, e gli auguriamo una grande carriera, anche perché a Pescara l'anno scorso ha fatto cose importanti, quindi è possibile che possa essere invece veramente un ottimo allenatore in futuro. Se dopo aver visto la partita di ieri non gli è venuto in testa, insomma, il pensiero: ah, l'avessi fatto un paio di mesi fa questo cambio in panchina. Premesso che poi bisognerà vedere che succede, ovviamente, gli auguriamo tutto il meglio. Però la squadra ha reagito in una maniera, devo dire, un po' sorprendente, ecco. Ma infatti io dico sempre queste cose, cioè non è che adesso il mister è arrivato in un giorno ha cambiato chissà che cosa, forse qualcosa nella testa dei giocatori che si sono un pochettino liberati da quel blocco che avevano, perché Oddo secondo me ha fatto un buon lavoro sin dal primo giorno in cui ha preso la squadra in mano 2 anni fa, non ci dimentichiamo che ha portato questa squadra a fare 2 finali playoff, di cui una vinta e l'altra persa per una traversa. Ha lanciato molti giovani, per cui io non rimpiango nulla, anzi ringrazio Massimo per il lavoro che ha fatto e gli auguro veramente tutto il bene per il futuro, perché secondo me ha stoffa per fare bene. Ma io le faccio i miei complimenti per questo, presidente, perché difendere un allenatore in una situazione così non perché lei è qui, ma l'ho sempre detto questo. Io penso che noi presidenti dobbiamo anche valutare il lavoro che gli allenatori fanno, perché poi quando si dice facciamo un progetto e poi dopo 2 partite mandi via l'allenatore, è giusto che l'allenatore il progetto se lo faccia per i fatti suoi, perché poi ci lamentiamo che non giocano i giovani, che se poi tu fai giocare i giovani e magari perdi 2 partite e li mandi a casa, allora l'allenatore fra i giovani e i meno giovani scelgono i meno giovani. Lei ha parlato di dignità da ritrovare, non credo basti una partita, sebbene vinta 5-0. Le chiedo infine se dopo un periodo molto complicato anche fuori dal campo, le vicende le conosciamo tutti che la riguardano, però la scelta di Zeman fino al 2018 lascia intuire l'idea di Sebastiani che non molla. No, ma Sebastiani ha sempre detto che se c'è, siccome Pescara purtroppo è una piazza di quelle che dimentica presto, ha sempre detto che se c'è qualcuno meglio di Sebastiani io sono disponibile. È chiaro che non mi lascio intimorire o non mi faccio cacciare da nessuno, tra virgolette, quindi da questo punto di vista non c'è nessun problema. Grazie presidente. Bocca al lupo anche a te, Pardo, per questa sera con Gasperini. Gasperini, Zengale, Giovanni, Auriemma, Mughini, Labbate, insomma un sacco di amici qua. Adesso no, pure... Scusa, mi fai un favore? Sì. No, oggi abbiamo parlato con Walter Zenga, volevamo averlo ai nostri microfoni, ha detto no, ma stasera devo già andare da Pardo, digli che la doppietta non fa peccato, eh. va bene, ok, glielo dirò. Glielo dici, grazie. Vabbè, ciao. Ci sentiamo. Aspetta, la schedina la facciamo domani, diciamo domani la schedina. Abbiamo pareggiato, no? È pareggiato 5 pari, 2 capuano. Sì. non granché, pensavo meglio, ho sbagliato tutte le partite quelle lì di fascia media. Diretto Sassuolo, vabbè, la Samp neanche. Ho sbagliato tutte e due il Napoli, dando l'X. Sì, ma perché abbiamo fatto i fenomeni, perché io poi lì in realtà bisogna. La verità è che dobbiamo fare pronostici banali, perché è tutto così banale, amico mio. E quindi, ma non essere, non è sì, fare, ma non sì. Fare così. Ma... Abbiamo avuto fare, capito, quelli ma perché che, abbiamo fatto all'indomani della. Che ti succede? Ma sì, hai bisogno di me. Vengo da te dopo la trasmissione, vengo a consolarti. Ciao, ti voglio bene comunque. Anch'io, ciao. No, ma però niente di grave, parlavo dei pronostici, che alla fine i risultati sono tutti prevedibili. La saluto. Sì, la saluto anch'io. Mi saluti Luca, mi saluti Luca, che l'ho sentito prima, è in grandi condizioni. Allora, facciamo un bel punto oggi, allora, sto scendendo il treno. Sentiamo domani, Pierluigi, ciao. GR, e poi torniamo con le pagelle del direttore, quale lo scoprirete. Convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su RDS.it. Ricominciamo tutti ai vostri posti! Tutti convocati. Andiamo a come that shaking touch the me, a giocare voi se sappi io faccio the same. Se l'attacco bene o male funziona, la difesa dà sempre l'idea di poter crollare sui ribaltamenti nerazzurri. E così accade puntualmente, ma in occasione del terzo gol non è giusto parlare di demeriti. Il merito è proprio tutto di Ronaldo al suo primo centro in campionato. Bravo a tenere vivo questo pallone, Panega lo gioca benissimo. Su D'Ambrosio, sotto porta! Gabriel Barbosa! Gabigol per la prima volta in Italia! Si toglie la maglia e va a esultare. Questo è un gol pesantissimo per l'Inter! Nello stadio in cui segnò il suo primo gol italiano Ronaldo! Sono troppo contento e troppo felice per questo. È un giorno speciale per me. Non sono potuto per il mio gol, è chiaro. Però c'è 3 punti che è troppo importante. Ringraziare i tifosi e addio. Ragazzi, io vi dico che la clip è molto bella, ma il parallelo è blasfemo, blasfemia allo stato puro, da denuncia. Alessandro da Bologna, buongiorno. Buongiorno, io stavo già ridendo per la blasfemia, perché sono assolutamente d'accordo. Io paragonare Gabigol a Ronaldo, no, we are joking, sono uno scherzo. Gabi monogol al momento. Gabi monogol, ma certo, no, ma è l'idolo del popolo web nerazzurro. Popolo web nerazzurro, ma non è ancora un idolo alla scoppa, ma aspettiamo. Lei di Bologna, ma nerazzurro. Esatto, ed ero allo stadio ieri, anch'io, come quel papà che ha commosso anche me, onestamente, sì, perché il racconto è stato bellissimo. Solo che probabilmente lui era da una parte e io ero dall'altra, io ero attaccato alla curva del Bologna, cioè un settore molto vicino, separato da una vetrata. E quando ha segnato l'Inter, non vi dico quello che è arrivato dalla curva, gente che si arrampicava, pugni, calci, anche in tribuna stessa, c'erano dei signori che si arrabbiavano moltissimo con chi ha esultato, anche con ragazzini che esultavano perché aveva segnato l'Inter. Per cui credo che siamo ancora un po' siamo un po' lontani dall'accettabilità, ma purtroppo vede, non fa notizia. Non fa notizia, come mi dice qualcuno, ma fa parte, visto che lei è una persona intelligente, possiamo parlare apertamente. Non fa notizia anche perché adesso io sono sommerso dai messaggi di quelli che mi dicono: o gli juventini, ma adesso dite del rigore del Bologna, che c'era per il Bologna, che era solare, chiaro che era solare. O gli interisti che dice: ah, sei contento adesso che puoi parlare di un rigore che non hanno dato contro l'Inter, cioè, non me ne frega nulla. Mi sono limitato a notare che ieri la pagnolada da parte della tifoseria nerazzurra non c'è stata, ma questo per la bellezza e la grandezza del calcio, non certo per interessi di volgari, interessi di partito. Magari la organizzeranno ovviamente a favore del Bologna la prossima settimana, la prossima domenica, il prossimo weekend contro la Roma. Allora, la settimana scorsa, in un momento di tremenda creatività, mi sono inventato per il lunedì a quest'ora la pagella del direttore, una genialata che nessuno ha mai fatto, ovviamente sto scherzando. Il direttore di turno oggi è Paolo De Paola, che dirige Tutto Sport, e lo saluto, buongiorno. Buongiorno carissimo. Buongiorno carissimo a lei, direttore. Senta, la prima cosa, voto alla Juventus che va verso Porto iniziando la campagna europea in un clima abbastanza strano, perché la goleata subita da Barcellona e altri fattori mettono la Juventus in una posizione di fiducia, eppure c'è qualche nervosismo, qualche stretta di mano che manca, qualche mugugno di troppo, qualche multa che vola, eccetera eccetera. Perché? Voto alla Juventus in questo momento. Ma voto alla Juventus 8 in questo momento, perché da quando ha cambiato modulo ha sicuramente ingranato una marcia di qualità che era già nelle corde, nella rosa della squadra, solo che Allegri non riusciva in qualche modo ad esporla, non riusciva a esporre il meglio della merce che aveva a disposizione. Adesso si riesce ed è accompagnato anche da risultati ottimi, positivi. Il nervosismo ci può stare, qualche malinteso ci può stare, forse. Ma io è strano cose... però, eh? Beh no, insomma, devo dire che ciclicamente si sono sempre stati anche dei litigi forti, ricordo un litigio molto molto alle mani proprio tra Lippi e Vieri, tra Lippi Ravanelli e Deschamps. Esatto, insomma, ci sono stati tanti episodi, insomma, e poi giocatori esuberanti nella Juventus ci sono sempre state. Molto spesso le cose in qualche modo rimanevano nello spogliatoio. Forse da un punto di vista estetico ha sbagliato l'altro ieri Allegri con il rintussare pubblicamente Bonucci, perché il caso Bonucci è emerso per la risposta che Allegri ha dato. Invece magari se Allegri avesse avuto un attimo di pazienza gli avrebbe risposto direttamente. Ma infatti il nervosismo riguarda anche un po' Allegri. Senta, le chiedo un altro voto. In questo momento voi picchiate abbastanza duro sul Torino, in particolare su Urbano Cairo, però un voto a Mihajlovic lo vogliamo dare? No, Mihajlovic per il momento è 6. Lo dico con franchezza, cioè non è entusiasmante e resta personalmente qualche dubbio sulle sue capacità reali di poter cambiare in corsa una sua idea tattica. Nel senso che è stato bellissimo il Toro di inizio stagione, ha liberato un pochettino le energie di questa squadra, soprattutto proponendola in fase offensiva. È ancora molto bella la fase offensiva del Toro, ma in difesa manca qualcosa. Devo dire, al di là delle responsabilità del tecnico, perché poi in qualche modo rinfacciamo a Cairo delle responsabilità, perché la difesa si sa da anni che andava registrata e non è mai stato posto un vero rimedio, soprattutto sui due centrali. quindi voto a Cairo insufficiente, votami Ajlovic per il momento 6. Mi sembra che abbia un po' perso il filo del discorso, però anche il tecnico ha perso il filo del discorso per l'entusiasmo che manca sia all'interno sia all'esterno della squadra, come se anche le dichiarazioni di ieri, fateci caso, insomma, non è stato un Ajlovic, cioè sembrava che nella conferenza post partita dovesse esplodere in qualche sua, e poi si è fermato, si è proprio smorzato. Vero, questo probabilmente dipende dal fatto che il Toro ormai non ha più un obiettivo, e questo è un po' triste. Anche perché secondo me è una squadra che poteva, come valore assoluto, poteva dire all'Europa lì, poteva essere l'Atalanta. Sono d'accordo. Perché il Toro non è l'Atalanta? Insomma, sono fa strano, d'accordo. Ecco. Sono d'accordo. Gasperini, non voglio fare paragoni, però Gasperini, come dicevamo prima, è un genio, l'ha detto Francesco Baccini. Assolutamente d'accordo. Le chiedo invece un voto a Montella per come ha gestito questa transizione verso il closing del Milan, una stagione incasinatissima, senza soldi, in un clima molto difficile. Devo dire 9 a Montella, perché non pensavo riuscisse a fare questo miracolo. Devo dire che è riuscito anche a gestire molto bene, soprattutto con dei finali di partite entusiasmanti, anche un periodo precedente, antecedente a quest'ultima vittoria con la Fiorentina, di 9 punti in 9 partite, insomma di un andamento altalenante del Milan, anche con pareggi e sconfitte che però non hanno mai lasciato la mare in bocca, perché si è vista sempre una squadra, soprattutto nei finali di partita, essere arrembante, quindi ti lasciava sempre negli occhi una sensazione positiva il Milan, e questo è merito dell'allenatore. D'accordissimo. Allora, l'ultimo voto che le chiedo è uno che credo basso, non lo so, immagino, per il ciclone De Laurentiis, e invece un voto al Napoli ieri dopo il ciclone De Laurentiis. Dunque, io vado un po' controcorrente. Io sono fondamentalmente d'accordo con quanto ha detto De Laurentiis. Anche sul momento in cui l'ha detto? 4 per il momento in cui l'ha detto, proprio 4. Cioè non doveva un presidente dire quelle cose a caldo dopo la partita. Se le avesse dette tutte condivisibili all'allenatore nello spogliatoio, nulla da dire. 8. Nulla da dire. D'accordo. Le ha dette in quel momento 4. Perfetto, questo perfetto. E la reazione del Napoli? La reazione del Napoli da 9, devo dire, perché in questo momento pratica il gioco più convincente, forse non più spettacolare ma più convincente, cioè lo eseguono assolutamente a memoria, e a Madrid c'è stato uno sbandamento perché il Bernabeu è il Bernabeu. È il Real. Col suo permesso. Grazie direttore, alla prossima. Grazie a voi. Grazie a Paolo De Paolo, direttore di Tutto Sport. Andiamo da Fabio da Mantova, prima di una delle mie rubriche preferite, cioè la top 3 delle dichiarazioni, e prima di dedicare un'ultima intervista ad Ale da Milano, che mi scrive un messaggio malizioso che poi vi leggo. Allora Fabio, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei. Magari ho sbagliato i tempi, ma volevo dire, portare una testimonianza su Juric, consentito ancora? Mm-hmm. Ecco, io sono di Mantova, ho avuto la fortuna di veder lavorare Juric per un anno, sono andato a vedere anche qualche allenamento quando avevo qualche pomeriggio libero, e vi garantisco che siamo tutti innamorati di questa persona. Quindi è un allenatore che veramente, con dei ragazzi giovanissimi, una società allo sbando, non c'era niente, fece il miracolo di salvarsi. Quindi ecco la testimonianza, che per me è un allenatore sul quale investirei sicuramente, ha un grande futuro. Sì, e sì. Quindi quando ma ieri questo... ho sentito grande esonerato, chiaro. No, ma Fabio, ma questo è quello che avevamo capito. Questo è quello che avevamo capito all'inizio della stagione, no? Quando il Genoa andava molto bene, tra l'altro ha fatto quel risultato con la Juventus. Poi è chiaro che se smonti totalmente una squadra a gennaio e la rifai, la ricostruisci, veramente ci vuole il mago Zurlì oppure un genio per poi ristrutturarla in maniera credibile. Mi sembra una situazione quasi irreale quella che stai vivendo il Genoa, che comunque, dai, guardiamoci negli occhi, pur via etere, Genoa il suo problema è salvo, perché la corsa salvezza è ormai chiusa, ma da un sacco di tempo. Quegli 8 punti di distacco con Letti in prospettiva classifica, con quei numeri, sono un'enormità. Zeman o non Zeman, Allora, top 3 delle dichiarazioni della settimana. Eccola qui. partiamo da Vialli, che racconta le sue serate ad Arcore. Una volta sono andato a casa sua ad Arcore, durante il periodo in cui insomma ci corteggiavamo. Dopo cena o prima? Abbiamo cenato, è stato molto gentile, e abbiamo parlato molto del Milan, della possibilità di andare al Milan. Poi ricordo che lui mi portò nella sala della musica e si mise a suonare il pianoforte e cantò. Ah, cioè l'aveva portato nella sala della musica. Luca ha fatto e andiamo! No. E invece lui ha cominciato a suonare. Fatto il pianoforte. Che serata sfigata. No, è stato piacevole e devo dire che io ascoltavo e dentro di me dicevo, dentro di me, non vedo l'ora di andare a casa per dirlo ai miei amici. Quindi morale, poi il club dei soliti noti, diceva Vialli, ma sei andato forse nel periodo sbagliato. Questo era quello che ho capito, un sottile sottinteso. Allora, rimaniamo in campo Milan, Montella e le liti telefoniche con Berlusconi. Poi l'altra era sulla pace con Berlusconi. Ma guarda, io non ho mai discusso con Berlusconi. Berlusconi, quelle che è filtrato è tutto giusto, perché tante cose filtrano e filtrano bene e le riportate bene. Non voglio sapere da chi sia partita. Non te lo diremmo comunque. No, ma neanche chi la fonte. Io non posso essere. Non è, il telefono di solito si parla in due, quindi. Che orecchie per intendere, le orecchie ce le avete tutti, io credo, più o meno funzionanti. Se non le ho dette io, eravamo in due al telefono, qualcuno vi avrà detto di questa conversazione. Zeman di Fioretti non ne vuole fare nemmeno, se il Pescara si salvasse, la sua icona, non come quella del cieco il sigaro, è quella di Zeman con la sigaretta in bocca. Sarebbe disposto a smettere di fumare per la salvezza del Pescara? No, fammi fumare ancora. Ogni tanto me la accendo una. Ilaria? Sì, è noto, diciamo che è abbastanza noto tutto questo. Ma purtroppo solo per quello, io vorrei essere noto per altre cose. No, Zeman, lei nel calcio è noto per tante, tante cose, aspetti di calcio e aspetti fuori dal calcio e anche, varie sollevazioni di argomenti pesanti. In questa fase della partita, che palla che trova sotto per Matchban, non facile, tutt'altro. L'area di Milano si chiude molto bene, ma poi c'è spazio per Savanovic che si apre da tre punti. Cusco Savanovic, 70 per Sassari, meno 5, e un attimo fa Milano era più 11. Agnetis che poi decide di penetrare, va fino in fondo con il fallo subito. 27 secondi e 43 centesimi, Milano va sul più 7. Sette, 74 comunque per una grande Dinamo Sassari, ma è Milano che dunque si porta a casa la 41esima edizione della Coppa Italia, la seconda consecutiva e, come detto, la sesta nella sua storia. E bisogna, diciamo, fare il lavoro sporco. Oggi molti di noi hanno fatto il lavoro sporco e questo è quello che conta, portare a casa un trofeo. A proposito di trofei, questa pagina è dedicata ad Ale da Milano, che mi scrive: dopo aver intervistato anche l'ultimo dei raccattapalle del calcio, magari due parole sull'Olimpia. A parte che noi di basket parliamo quasi tutti i giorni e di Olimpia parliamo molto spesso anche per via dell'Eurolega. Per quanto riguarda i titoli invece, sesto titolo italiano per Jasmine Repesa, il 20° in carriera. Buon pomeriggio, coach. Buon pomeriggio, grazie per chiamata. Grazie a lei per aver risposto. È stata lunga la strada di queste Final Eight, lunga e difficile, ma Milano ha dimostrato di saper vincere anche sotto pressione. Sì, hai detto tutto. Siamo andati a Rimini consapevoli che andiamo là come favoriti, ma in stesso tempo consapevoli che tutti i nostri avversari sono rinforzati nell'ultimo periodo. e tutti venivano solo con l'obiettivo come battere Olimpia, consapevoli che abbiamo passato un periodo molto difficile in Eurolega, giocando non bene quasi due mesi, un anno molto complicato, e l'ultima tegola che abbiamo avuto è senza Simon, giocatore certo, diciamo più creativo per nostra squadra, e con tutti questi pensieri siamo andati là, ma in stesso tempo determinati e secondo mentalmente ben preparati per fare tutto per andare fino in fondo. Sì, grande leadership quella di Simon, che è un giocatore cruciale per la tua Armani. È un caso se nei momenti complicati, è successo anche in Eurolega, esce un'anima in qualche modo nascosta, che è quella di Cinciarini e di Pascolo? Non solo loro due, hanno giocato un ottimo torneo senza dubbio, hanno contribuito tantissimo per vincere questo torneo, ma secondo me tutti i ragazzi hanno fatto tutto che potevano fare e dare in questo momento per riportare a casa di nuovo un trofeo che per noi significa tanto. Prima di tutto perché non si è giocato di nuovo a nostra casa come l'anno scorso o come gli ultimi 2-3 anni. Sì. E siamo sapevamo tutti che dovrebbe essere un po' più sfida un po' più complicata rispetto all'anno scorso, perché giocare a campo casalingo davanti ai nostri tifosi sicuro è certo, diciamo un po' più facile. Certamente. Eri stato nel periodo duro dell'Eurolega, eri stato molto duro pubblicamente con i giocatori, dicendo chi non vuole, in maniera proprio quasi cattiva, chi non vuole giocare qui non importano i contratti, che se ne vada. Poi c'è stato un periodo in cui avete giocato delle grandi partite di Eurolega fino a quasi tornare in corsa. Quanto è grande il rimpianto? C'è rimpianto, senza dubbio, perché per due vittorie di più sarebbe una situazione completamente diversa, certo, già adesso. Certo. Non voglio dire 3-4 quante potevamo vincere, come, non lo so, persa a Bamberg dopo supplementari, persa contro Galatasaray a Istanbul con l'ultimo tiro. Madrid. Persa contro Real Madrid, che ha persa contro Efes Pilsen, che sembrava già vinta. Già ho detto 4 partite che si potevano vincere o potevano finire a modo diverso. Ma onestamente Olimpia quest'anno, con un rammarico che è rimasto dietro di noi, sai, ma in stesso tempo sono convintissimo che quest'anno non abbiamo tutto che ci vuole per andare non fino in fondo, andare molto serio a competere in Eurolega, diciamo andare a Final Four o e così. Capito. Ci è mancato qualcosa, abbiamo avuto problemi dentro, sicuro nessuno è stato calmo come io, come allenatore, facevo tutto per cambiare qualcosina dentro la squadra, qualche volta parlando un po' più duro, ma questo è il mio compito e lavoro, vuole qualche volta così. Certamente. Un po' carota, un po' bastone. Un po' bastone, un po' carota. Grazie coach, grazie, complimenti per la Coppa Italia sollevata ieri. Dunque, così chiudiamo il lunedì di tutti i convocati in attesa del martedì di tutti i convocati, sempre con Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzani in redazione. Ciao a tutti.